questo fango vedere nascosto il cielo. Bisognerebbe amare davvero, non avere paura, non lamentarsi tutto il giorno, non disperare e non rispondere al male con il male e non desiderare più di fuggire, non morire mai più. Bisognerebbe non pensare che a te, non pensare che a te, che poi si viva su una stella o giù nel fondo, volere bene al mondo. Sempre il modo di comunicare questo immenso amore, solo amore, senza più dolore, solo amore, perché si tratta di rimettersi in discussione, fermarsi ad un centimetro dal burrone. Si tratta di essere molto attenti ai nostri cambiamenti, perché il problema è non confondersi col rumore e abitare questo spazio tutto interiore, scoprirsi qualche volta a camminare sulle acque del mare. Sospesi tra la gente che c'è, bisognerebbe non pensare che a te, te, trovare sempre il modo di comunicare questo immenso amore, solo amore, senza più dolore. Questo immenso amore, solo.